Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. In questi giorni, devo dire, esiste una fattispecie molto particolare sulla quale chiunque può riflettere, sia egli un raccontatore di realtà, sia un attento osservatore, ascoltatore di chi racconta questa realtà. La vicenda di cui sto parlando, come vi ho annunciato ieri, è naturalmente gioco forza, tutto ciò che accade attorno a un evento di cronaca nera, avvenuto in un paese, a Vetrana. A Vetrana si è svolto uno dei tanti delitti ad alta componente emotiva di cui la cronaca, soprattutto televisiva, in questi ultimi anni si sta alimentando in maniera molto proficua, anche molto ben remunerata dagli ascolti. Più o meno qualcuno ha fatto questo tipo di collazione nei giorni precedenti: si assomigliano tutti, tutti avvengono in un piccolo centro, tutti avvengono in un quadro familiare apparentemente integerrimo e rispettoso di ogni regola, tutti avvengono addirittura in un luogo architettonico somigliante, in delle villette, in dei luoghi che danno la palpabile sensazione di un benessere familiare, di una quiete economica raggiunta, quindi il punto, il traguardo della felicità domestica. Tutti hanno un quadro cruento legato a membri della famiglia, o madri che uccidono i figli, fidanzati che uccidono le fidanzate, e figli che uccidono i genitori. C'è sempre questo senso quasi epico dentro, di fatto di sangue tra persone legate e unite dallo stesso vincolo di sangue. E su questo, in maniera più o meno scellerata o più o meno corretta, a seconda del punto di vista, i mezzi di informazione naturalmente ci sono buttati, perché quando qualcosa coglie fortemente l'emotività pubblica è giusto, è lecito e anche doveroso da parte di chi per mestiere informa raccontare nei modi e nelle maniere che ritenga più opportune, naturalmente in dei limiti di deontologia, quello che sta accadendo. Ma ciò che avviene a Vetrana ha una sua particolarità. Anche se risponde a questo quadro generale, anche se ha tutte le caratteristiche del delitto familiare, è riassumibile nel plastico di una casa in uno studio televisivo, tanto anche in questo non ha avuto un'eccellenza, ha una novità. La novità è il tempo reale. La novità è la sensazione che hanno le persone che seguono questo ennesimo fatto di sangue di essere partecipi all'evento mentre esso accade. Quasi che la loro partecipazione possa anche, e questa è la cosa più terribile e più atroce, influire in qualche maniera la vicenda. È un po' come quei serial televisivi ad interattività in cui le persone l'hanno fatto, qualcuno ha provato questa sperimentazione, magari pigiando su un tasto colorato del telecomando, può interferire nella trama, vuoi che vada avanti secondo lo svolgimento A, B e C, tu scegli C e improvvisamente il protagonista cambia percorso e fa un'altra cosa. Beh, questa è l'impressione che hanno avuto tutti. Cosa è accaduto di singolare ad Vetrana? La televisione si è improvvisamente accorta del suo fortissimo potenziale di intervento, la militarizzazione del luogo fisico in cui è avvenuto il fatto di sangue ha determinato una presa diretta così forte che mentre avviene un arresto, mentre avviene la notizia del ritrovamento di un cadavere, la televisione è lì. La televisione non si è più mossa lì, è sempre rimasta lì. E ci sono una folla di telecamere, di unità mobili, di giornalisti che stanno lì a dare il minuto per minuto. Ma c'è ancora qualcosa di più. Ad Vetrana, attorno al fatto di Vetrana, è accaduto qualcosa che prima non era mai accaduto. Dei verbali di interrogatorio, ancora caldi, diciamo, di registrazione, ancora prima che sia chiusa un'inchiesta, ancora prima che sia fatto un rinvio a giudizio, sono stati trasmessi. Tutti abbiamo ascoltato, nella drammaticità della emissione vocale, sia la confessione, la prima confessione del presunto autoaccusato assassino, e sia l'interrogatorio. corporeo di sua figlia, anche lei in qualche maniera implicata probabilmente in questo assassinio. Leggerle una cosa, ascoltarle un'altra cosa, il tassello ulteriore dall'impatto emotivo di una voce fredda, impassibile, che descrive con dovizia di particolari un'uccisione, un interramento, uno stupro di un cadavere, e altrettanto una voce rotta dal pianto di una persona come appunto la figlia Sabrina, che siamo stati abituati ormai a definire una perfetta interprete della sua generazione televisiva. Siamo quasi una concorrente di Amici o del Grande Fratello, che conosce perfettamente la macchina tanto da adoperarla e usarla a suo favore. Beh, tutto questo ha determinato una sola voce critica, che perlomeno a un certo punto da parte di chi racconta ha detto: beh, fermiamoci un attimo, facciamo un punto su questa situazione, facciamo un passo indietro. Se è bello e giusto raccontare, so che tutti sono assatanati, ma forse è il caso che in questa occasione ci sia il rispetto per il lenzuolo bianco. Esiste un gesto antico di pietà che mi torna in mente continuamente in questi giorni. È quello di coprire il corpo di chi è morto in un luogo pubblico. Lo si fa con un lenzuolo bianco, una coperta, un qualunque indumento che protegga almeno il volto e il busto di chi ha perso la vita rimanendo esposto su un marciapiede, in mezzo alla strada, su una spiaggia o in un campo. È un gesto codificato dal mondo greco, almeno 25 secoli fa, e non serve soltanto a proteggere i morti dallo sguardo dei vivi, ma anche noi stessi, i vivi, dalla vista della morte. È il limite del pudore, del rispetto. È il simbolo della compassione e della capacità di fermarsi. Oggi si è fatta strada in Italia una strana concezione dell'informazione che si potrebbe sintetizzare in un gesto, quello di sollevare il lenzuolo e spingere tutti a fissare quello che c'è sotto. Molti restano incollati all'immagine terribile, altri sfuggono, alcuni cominciano a provare disgusto. Questo era l'editoriale di ieri di Mario Calabresi, direttore della Stampa, che nel suo giornale ha detto: beh, ricordo al mondo che esiste una consuetudine, ma questa esiste anche per i morti di Lupara, per i morti schiacciati in un incidente stradale, per i vecchi infartati sui marciapiedi. Quando una persona muore improvvisamente, laddove continua a scorrere il flusso della vita, cui le persone hanno i loro quotidiani impegni e quindi potrebbero passare indifferente di fronte a qualcuno che invece è morto. A me è capitato giorni fa di vedere vicino a Piazza Mazzini un barbone morto. Era lì, avevano transennato il marciapiede con le strisce rosse e bianche, ma nessuno lo aveva coperto. E la gente passava, le macchine rallentavano, c'era questo poveretto morto per terra, schiattato nel suo cappotto con i suoi stracci. Il lenzuolo bianco non sembrava più di moda. Beh, Mario Calabresi ha detto: beh, forse nel caso di la vetrana bisogna riflettere sul fatto che laddove c'è un morto, di qualunque tipo esso sia, c'è il caso ci sia anche qualcuno che ci mette un lenzuolo bianco. E è forse giusto e lecito che noi solleviamo questo lenzuolo bianco, perché in realtà la morbosità, la curiosità, il desiderio di avere sotto anima il nostro pubblico di ascoltatori e di lettori. In America mai si sognerebbero di divulgare l'audio di un interrogatorio, anche se hanno messo da tempo in rete le telefonate dell'11 settembre, ritenendo che questo servisse a ricordare il dramma. Ma mai è stato mostrato un solo cadavere dei morti delle torri, perché non si tratta di censurarsi, ma di valutare e di non far prevalere soltanto il criterio degli ascolti, del numero di copie vendute o dei click su internet. Sono convinto esista un limite, e ieri passava per la diffusione di quei file audio. Per questo penso sia tempo di tornare a rispettare quel lenzuolo bianco. Altri lenzuoli invece il giornalismo deve continuare a sollevarli, e sono quelli che rivelano gli scandali, le corruzioni e le criminalità, che fanno meno circo e meno audience e amerebbero il silenzio. Mario Calabresi. Mario Calabresi, buongiorno. Buongiorno. Ciao direttore, vedo che oggi il lenzuolo bianco è l'argomento, ma era anche prevedibile, delle lettere al direttore. Il pubblico direttore ha reagito e si è trovato naturalmente d'accordo sul fatto che il lenzuolo bianco non vada sollevato. Ma questo secondo te può valere anche per la televisione? Penso di sì. Allora, voglio spiegare una cosa. Io non penso che non si debbano più raccontare le storie. Non sbagliamo ad immaginare, no? Voi l'avete detto chiaramente, ma in alcune lettere, per esempio la prima di quelle che ho ricevuto ieri, che ho pubblicato sul giornale, una persona mi diceva: ma allora perché continuate a parlare del caso? Perché lo raccontate ancora? Si diventano tutti vergini vestali, sì, sembra che nessuno voglia sapere più niente. Sì, no, io non penso che adesso improvvisamente noi diciamo: no, non raccontiamo più i fatti di cronaca per rispetto di quello che è accaduto. No, il problema sono il modo in cui si raccontano le cose. Perché raccontare un fatto di cronaca, raccontare un giallo, raccontare qualche cosa che sembra di difficile risoluzione, sono sempre stati uno dei grandi ingredienti, dei grandi punti forti del giornalismo. Il punto è come lo si fa oggi, anche grazie alle tecnologie e poi grazie anche a un venir meno di regole. Io parlavo del mio pezzo di porosità, cioè oggi un tempo i giornalisti dovevano passare la loro giornata alla caccia di un dettaglio, di un particolare, di una voce, di un interrogatorio che gli venisse riferita, di una frase. Oggi invece si è inondati da tutto. Beh, te li tirano dietro i DVD con gli interrogatori. E adesso arrivano anche i file audio. Io domenica mattina, quando ci è arrivato il file audio, ed siamo stati i primi ad averlo, e quando dico il click su internet, noi adesso, per esempio, la settimana scorsa mi dicevano venerdì: ah, siamo vicini a fare il nuovo record sul sito, un nuovo record di ascolti. Allora io domenica mattina, se avessi messo per primo quegli audio, avremmo fatto tranquillamente il nostro record mensile e saremmo stati contenti. Io però ho pensato che l'idea di mettere che non ci fosse più nessun tipo di mediazione giornalistica, nessun tipo di contesto, di spiegazione, ma semplicemente di prendere, sentitevi l'interrogatorio, come dicevate voi prima, ancora caldo, sentitevelo così, ve lo sbatto in faccia senza darvi degli elementi per capire. Tra l'altro quell'interrogatorio in parte è già stato ritrattato, discusso, non è chiaro, ma non importa, te lo butto lì. Questo secondo me è, oltre che un po' pornografico, è anche rinunciare a fare giornalismo. Sono anche esseri umani sotto pressione, perché colpevoli o innocenti che siano, il momento dell'interrogatorio non è mai un bel momento. Le lacrime di Sabrina pressata nell'interrogatorio non sono le lacrime che possiamo anche pensare, immaginare, supporre, allucinare, che siano derivate da uno che conosce molto bene la televisione. Sai, quando ti interrogano non è un bel momento, è un momento comunque di sofferenza. Sì, apro una parentesi, poi sulle garanzie che a qualunque imputato arrestato andrebbero date, per cui non è che adesso tutto vola fuori in questa maniera. Ma secondo te chi è che fa uscire questo interrogatorio? Perché tutti ci domandiamo la stessa cosa. Sì, no, una mia indagine personale ogni volta che li riceviamo l'ho fatta, e la risposta è che non esiste una categoria. Sbaglia chi pensa che siano i magistrati, i cancellieri, le forze dell'ordine, gli avvocati, sono tutti. Ogni volta c'è qualcuno che può avere interesse. Quindi ogni è come una canzone dal cellulare che passa col Bluetooth al cellulare di un compagno di scuola. Esatto, ci sono e volano. Esatto, volano in questa cosa. E a questo punto però i giornali, secondo me anche le televisioni, devono porsi il problema di dire: va bene, ma tutto questo che arriva, per il solo fatto che arriva ed è disponibile, merita di essere pubblicato, va pubblicato, oppure compito del giornalista è quello di selezionare ciò che vale, ciò che non vale, e avere anche un minimo di etica sul fatto. Il motto del New York Times, all the news that fit to print, tutte le notizie che valgono la pena, che meritano di essere pubblicate, che valgono la pena, non tutte le notizie che ci sono arrivate ieri sul tavolo. Allora io penso, quando ho sentito quell'audio, ne abbiamo sentiti 5 secondi, poi sapevamo che cosa diceva, e devo dire la verità, non mi interessava stare lì morbosamente a sentire quest'uomo nella sua descrizione di un omicidio di una ragazzina, perché mi sembrava di essere un guardone, di essere uno lì con l'orecchio. Ho detto: ma allora cosa devo fare adesso io? Metterlo e far fare a tutti i miei lettori, dargli qualche cosa di morboso, che cosa aggiunge? Con la consapevolezza, Mario, che dopo 10 minuti comunque tutti l'avrebbero messo online e tutti l'avrebbero ascoltato. Pazienza, ho pensato che fosse importante dare un segnale. Ma hai visto cosa è successo poi di quell'audio? La televisione ha fatto un'operazione ulteriore, lo ha montato come colonna sonora di alcuni video di repertorio, qui si vede magari lo zio che parla magari dei fatti suoi con il doppiaggio sotto, che sembra come Ghezzi quando fa Fuori Orario, che in Fuori Sincrono dice le stesse cose, quindi ha creato un documento che nemmeno esiste. No, questo quello dicevi poco fa, che è come un reality, è un reality. Però io non voglio adesso fare chi è bravo, chi non è bravo, televisione contro giornali, televisione contro radio, internet contro carta, perché non ha senso questa cosa qua, ha senso fare un discorso più largo. E io penso che quando tu, il giornalismo sta, se tu mandi qualcun giornalista in un luogo, se tu mandi un giornalista da vetrana, chi paga il prezzo del biglietto, cioè la copia del giornale o l'abbonamento alla televisione o qualunque cosa, che cosa pretende da te? Che se tu vai lì, stai lì dei giorni, intervisti persone, leggi documenti, studi, parli con gli avvocati, leggi le carte, fai un lavoro e poi devi tirare fuori una sintesi e cercare di dare un prodotto a chi ti legge, qualche cosa che ti faccia comprendere che cosa è successo, che non dico sia la verità, ma che si avvicini il più possibile a quello che è accaduto. Se non c'è più questo lavoro di mediazione, di contesto, di spiegazione, che cos'è? Semplicemente la rinuncia a fare giornalismo. Attacchiamo il registratore, prendetevi questa roba, ognuno si faccia la sua idea, non vi diamo nessun elemento per orientarvi. Questa qua è la rinuncia al giornalismo. Ecco, volevo sentire adesso una collega. Io l'altra sera ho visto di notte tempo uno speciale fatto da Gabriella Simoni per Studio Aperto. Ho visto qualcosa di diverso. Era già tutto il giorno che la televisione parlava da vetrana, già era tutto il giorno che vedevamo le folle, le curiose davanti alla villetta, il cancello della villetta, i repertori, le attese, gli ultimi minuti, le rincorse agli avvocati. Gabriella Simoni ha fatto un'operazione di giornalismo d'antan, sembra sconosciuto. È andata passo passo a ricostruire i momenti, le vite, i passati, le storie dei protagonisti. Gabriella Simoni è al telefono. Gabriella, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno Mario, buongiorno a te. Ecco, il tuo punto di vista, tu sei la televisione, in questo momento la grande accusata e da me sempre difesa perché... No, non è un compito semplice. Sì, sì, però... Mi dici qual è la singolarità di questo fatto? Perché stiamo ancora a parlarne quando poi alla fine potrebbe tutto risolversi nella deprecazione dei plastici nello studio di Vespa e finiva lì? No, c'è qualcosa in più, c'è qualcosa di diverso. Mi puoi aiutare a coglierlo? Guarda, io sto cercando di farlo da quando ho cominciato a occuparmi di questa storia e mi fa piacere la cosa che hai detto, perché quello che ho cercato di fare è di applicare le vecchie regole di questo mestiere a una storia che invece ha fatto saltare tutte le regole in qualche modo. Sai, Gabriele, io mi sono trovato ieri a dover commentare in un programma TV la differenza fra Sabrina che digitava sull'iPhone 4 velocemente e lo zio con le sue mani nere e rozze che teneva un telefonino in mano di cui non sapeva nemmeno il funzionamento. Io però quello che voglio dire è che in tutta questa storia ci sono anche tutti questi elementi. Ora, il problema, secondo me, è il tipo di atteggiamento e sentimento e di atteggiamento professionale che ha il giornalista, nel senso che ci sono degli elementi nuovi, è così, non è possibile pensare a delle vecchie regole o al mondo ormai che ha una tecnologia diversa che ci invade comunque. Cioè, le regole vanno riscritte quando si conosce però l'evoluzione del mezzo, secondo me. Vanno riadattate a quello che è oggi, quello che comunque ci entra nelle case. No, è come se noi dicessimo, io un certo tipo di televisione a mio figlio non la faccio vedere. Bene, poi va a casa dell'amico e la vede. Quindi forse se gli do gli strumenti per capire quel tipo di televisione o di videogioco o di messaggio che arriva sul telefonino, forse faccio un'operazione di tipo diverso. Poi probabilmente... Questa è una cosa che io sento e dico così perché faccio televisione, ci vivo in mezzo da un sacco di tempo e quindi mi illudo che possa essere così, ma io lo credo fermamente. Io credo che si possa ancora non far vedere delle facce delle persone e raccontare qual è la verità di un paese, oppure semplicemente ricostruire le storie dei protagonisti di una vicenda. Probabilmente usare anche una parte di quello che c'era quando noi abbiamo fatto lo speciale, non c'erano gli audio, diciamo, che è vero che è una cosa che anch'io non capisco bene come sia uscita, non era mai successo. Però sai, oggi la tecnologia permette questo, che con il Bluetooth in un secondo un file audio può passare da un telefono all'altro. Quindi bisogna fare i conti col fatto che la tecnologia interferisce nel racconto corretto di un giornalista, comunque appare. È un po' quello che diceva prima Mario Calabresi quando diceva della prima lettrice che ha scritto sul giornale, allora anche voi avete scritto. Se no, Mario, si crea l'effetto contrario, che diamo esistenza a tutto il neoluddismo, a tutto il conservatorismo, a tutto il perbenismo, che in realtà di fronte a questo dice: ah, no, noi ne siamo indenni. Mario. Sì, no, no, ma infatti non è, non, il punto non è dire spegniamo la luce, chiudiamo tutto. Il torniamo alla vecchia appunto, scrittura, come ha scritto oggi una tua lettrice. Però guarda, la cosa che ha fatto la Simone l'altra sera, paradossalmente anche utilizzando il mezzo televisivo, era tornare alla vecchia scrittura. Però tornare, cioè, quando si pensa, c'è stato un momento in cui si pensava che il giornalismo online, in rete, fosse per forza superficiale, dovesse essere per forza leggero, dovesse raccontare solo della mamma che aveva 9 gemelli, dell'uomo che nasce con 2 teste, cioè si pensava che il giornalismo su internet fosse soltanto intrattenimento di bassa lega. Mi ricordo che appena aprirono il sito internet andai in un giornale spagnolo e mi dissero: ah, abbiamo messo al sito internet, ma chi ci mettete a lavorare? È il tonto della redazione, lo stupido della redazione. Io l'ho fatto, ecco, per 5 anni in Rai, il tonto dell'azienda, ecco, pensa un po'. Il punto fondamentale è: ma dove sta scritto questo? Dove sta scritto che quelle regole, quel buon senso che esisteva nel giornalismo tradizionale non debba appartenere anche, certamente magari declinato in modi diversi, ai nuovi mezzi? Perché non si possono raccontare storie, non si possono approfondire le cose, non si può far capire alla gente che cosa sta succedendo anche utilizzando Twitter, mandando un file che ti indica qualche cosa? Diciamo, Mario, siamo in un momento di profondo e interessantissimo passaggio in cui esiste il mondo antico che guarda anche un po' di sospetto, è il mondo contemporaneo dei nativi digitali che però manca degli strumenti professionali basilari. Noi che siamo la generazione intermedia abbiamo la responsabilità di essere da ponte. Io lascio Mario Calabresi perché so che la riunione del giornale Quotidiana, dico a Gabriella Simoni se può restare ancora un pochino che dopo le informazioni dalla borsa, saluto intanto Calabresi, dopo le informazioni dalla borsa riprenderemo questo argomento. 800 24 0024. Se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Novi Ligure, 21 febbraio 2001, ore 22:30. I fotogrammi di quella sera sono i fotogrammi di una situazione che non avrei mai pensato di vivere in diretta. Fino sopra ci sono andati! È una cosa di una ferocia senza limiti, praticamente. Mercoledì 30 gennaio 2002, Montrozze, frazione del comune di Cogne, Valle d'Aosta. Dice che evidentemente può essere avvenuta un'implosione del cervello, perché i bambini a quell'età non hanno ancora il cranio ben saldato. Ma il medico del 118 non la pensa così. Questi soccorritori vedono tutto quel sangue e pensano che non sia un aneurisma. Questo erano dei documenti presi da Delitti su History Channel. La cronaca nera degli ultimi anni già è diventato il racconto epico della nostra storia. Già History Channel prende, vedete, gli episodi cruenti, gli episodi truci, quindi siamo ben abituati, non siamo tutte vergini, non ci svegliamo questa mattina, non ne ridiamo questa mattina per le descrizioni del tampone intimo che dovrebbe determinare le tracce di effrazione nel cadavere della ragazzina tenuta in ammollo per 40 giorni. Siamo abituati a ben altro. 800 24 0024, questa mattina stiamo cercando di capire la mediazione giornalistica che sfugge di mano a volte agli stessi mediatori sul fatto di Avetrana, quanto rappresenti una singolarità. Per farlo abbiamo chiamato Gabriella Simoni, che è inviata di Studio Aperto, che conosce bene quel posto perché lo ha scandagliato come giornalista. Gabriella, mi sai descrivere il set di Avetrana? C'è una consapevolezza diversa rispetto ai tanti set dove avveniva un episodio di cronaca eclatante che tu hai attraversato? Ma sì, io penso che la grande differenza rispetto agli altri, virgolette, set, perché comunque sono posti terribili, di grande dolore, no? Dove paesi interi... sai, quando ci sono più telecamere che parcometri in un centro abitato diventa un set. Sì, no, il set, lo dicevo... Allora, secondo me la grande differenza è che ora le telecamere sono accese continuamente, cioè mentre per il fatto di Cogne e di Novi Ligure ancora prima, quindi ancora meno, c'erano tutta una serie di TG e qualche programma di approfondimento. Adesso, come tutti ben sanno, ci sono anche i programmi del mattino, del pomeriggio, H24, che in qualche modo sono accesi tutto il tempo, e quindi questa cosa in qualche modo alimenta ancora di più e la curiosità, perché le televisioni italiane sono accese comunque sulla televisione, e anche il bisogno di sapere, no? Cioè un bisogno anche indotto. Quindi Gabriella, però... scusa, per capire, questo è un particolare che a me interessa. A Vetrana un monitoraggio a tempo reale nei locali, nei bar, nei negozi, nelle case, che volta per volta scanala laddove c'è la diretta? Abbastanza, sì. Cioè, tranne alcune persone che dicevano appunto io non ho voglia più di vedere questa cosa, ma erano già passati 20 giorni, però in linea di massima sì. Se mi permetti ti racconto una cosa velocissima che mi è successa quando ero a Cogne. Io quando sono arrivata a Cogne c'era già molta più rabbia rispetto ai giornalisti di quella che ho trovato ad Avetrana, e per giorni ho fatto discussioni anche al bar con i signori che giocavano a carte, dicevano basta la curiosità dei giornalisti e tutta una serie di cose anche giuste peraltro. E poi a un certo punto, quando hanno preso confidenza con me, quindi dopo 2-3 settimane stavo lì, mi chiedevano i particolari scabrosi di Novi Ligure, che era la storia eclatante che era successa appena prima. E come Dynasty e Dallas che si contavano. E io lì a quel punto ho detto, ma cioè alla fine questa cosa... voi la provate nei confronti di un altro evento, no? Esattamente come la nonna quando ero piccola, e poi chiudo, mi raccontava che quando c'era il delitto Montesi i giornali non si trovavano più e gli analfabeti se lo facevano leggere da quelli che sapevano leggere. Quindi è una cosa che c'è da sempre, la curiosità rispetto a questo tipo di eventi, no? Che noi poi lo vogliamo o meno, lo approviamo o meno, c'è anche questo aspetto. Sentiamo Piero Vereni. Piero Vereni, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Piero Vereni è antropologo, ricercatore all'Università Roma Tor Vergata, spesso nostro ospite, autore di Identità Catodiche, edizioni Meltemi. Hai sentito il particolare, forse trascurabile per molti, che però ha raccontato la collega Gabriella Simoni, a me fa riflettere. Vediamo come vedi te questo paese trasformato in set televisivo, al punto tale che ognuno ha il suo monitor, la sua spia, e si passa di canale in canale per vedere dov'è in quel momento accesa la luce rossa della telecamera. Sì, sicuramente è la novità che avete evidenziato molto bene. Insomma, il direttore Calabrese era partito evidenziando il rischio della rinuncia al giornalismo, no? Se si mettono online in file, e quello che ha detto Gabriella Simoni è una spia dello stesso problema, cioè le telecamere sono accese continuamente, c'è questo monitoraggio in tempo reale. Io penso che il problema è proprio lì, non c'è una questione di morbosità nuova. Se i greci avevano, diciamo, inventato il rituale del lenzuolo bianco da stendere sul velo del morto, avevano anche inventato la tragedia, che era lo spazio pubblico in cui si parlava del male, e avevano inventato il farmacos, che era il capro espiatorio su cui si riversava il male. Quindi c'è sempre stato questo bisogno di parlare del male. È necessario da qualche parte ci sia qualcuno che elabori comunque un disagio comune raccontando qualcosa di concreto. Ma tu guarda l'Iliade, ci sono delle descrizioni di lance che attraversano corazze, spaccano le ossa, fuoriescono le viscere, ci sono delle cose che altro che il lenzuolo bianco. Appunto, non è una questione di tasso di morbosità, diciamo. Io penso che il problema sia proprio quello, la rinuncia al giornalismo, cioè nella tragedia, nel farmacos, nell'Iliade c'è un mediatore culturale preciso, il sacerdote, il poeta, che si assume la responsabilità di raccontare quell'evento pensando al bene comune della collettività. Che infatti nell'accezione più classica è sempre un cieco. Il vate, fat significa vedere, che la radice di vate, è cieco. Non ha bisogno di vedere la realtà, tra virgolette, come la vediamo noi comuni mortali. Anzi, la sua forza è la capacità di filtrare culturalmente per quello che ci serve. Cioè lui sfrutta il nostro desiderio di morbosità per insegnarci qualche cosa. Io penso che oggi il giornalismo deve pensare seriamente, difatti il fondo del direttore Calabresi è stato lì per quello, insomma, no? Deve pensare, ripensare seriamente a questa sua funzione sacrale, no? A questa sua funzione sacerdotale e poetica. Sentiamo un attimo Claudio, ascoltatore Claudio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, la mia vuole essere soltanto un'osservazione, perché un paio di mesi fa, credo tre, in una vostra trasmissione c'è stato ospite un giornalista, credo spagnolo, si chiamava Domenech o qualcosa del genere. Può essere. Conosce meglio lei. Sì. Il nome, sì. E questo giornalista fu interrogato proprio sul fatto di come veniva fatto il giornalismo in Italia. Disse che in Italia il giornalismo ultimamente, cioè, era sbagliato, perché i giornalisti tendevano a fare poesia, a romanzare delle notizie che invece dovrebbero essere semplicemente raccontate e basta, altrimenti si crea ovviamente tutto questo seguire anche da parte delle persone. Guarda, romanzare significa contraffare. Un tratto poetico nel racconto il giornalista, secondo me, ci sta bene. Il giornalista non è soltanto un freddo mediatore, se no per questo ci sono i colleghi bravissimi che fanno le agenzie di stampa, che sintetizzano nell'essenzialità la notizia. Un giornalista, quando racconta, quando scrive, senza inseguire il virtuosismo della propria penna in un narcisismo che nessuno apprezza, un minimo di personalità deve metterla nella lettura notizia. Io devo dare velocemente la linea all'informazione del traffico. Abbiamo recuperato Gabriella Simoni, abbiamo Piero Vereni al telefono, tra un istante riprendiamo. 800 24 0024. Melog 2.0. C'è un fatto drammatico che tiene da 24 ore tutti con il fiato sospeso, la sorte del bambino di 6 anni. E da ieri sera prigioniero in un pozzo. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? Sono le 21.30 di giovedì 11 giugno. Tutta l'Italia pensa solo a Vermicino, ma il lavoro della trivella procede a rilento, troppo a rilento. Era l'anno 81, molti collocano Vermicino come l'inizio, il punto zero di una certa televisione di cui stiamo parlando oggi. Io non sono molto d'accordo, ripeto quello che ho detto più volte. Vermicino fu una tragica casualità. Vermicino era nella linea della televisione encomiastica dell'istituzione, doveva essere il grande trionfo del salvataggio del bambino. In realtà ci si è resi conto, quando si fa una presa diretta su un accadimento, non si può mai prevedere l'esito dell'accadimento. Andò male, andò malissimo per tutti. Fu un fallimento, fu una sconfitta, fu una cosa atroce. Qui, nel caso di Vetrana, c'è una consapevolezza diversa. È Gabriella Simoni, inviata di Studio Aperto, che ha attraversato gli episodi di cronaca, ma non soltanto di cronaca nazionale, anche i teatri di guerra degli ultimi anni, quindi è una cronista di stoffa, e cerca di farci capire questa mattina qual è la circostanza nuova sul fatto di Vetrana, che sentiamo, che allucinamo, che annusiamo, non abbiamo ben definito. Forse è Gabriella che si è perso il timone della regia. La televisione fa la regia di se stessa. Non esiste più un regista perché ormai è onnicomprensiva? Ma guarda, sentendo anche l'ascoltatore Claudio, no? Se non sbaglio, sì, si chiama quello che il signore è intervenuto, mi vengono in mente due cose. La prima è che esistono delle regole di questo mestiere che sostanzialmente non sono delle leggi, ma delle regole. Cioè, io vedo quello che racconto e racconto quello che vedo. E nel senso, a me è capitato di arrivare da Vetrana la prima volta subito dopo la confessione e l'arresto di Michele, lo zio di Sara. La verità del paese era diversa dalla verità processuale. Cosa già dicevano loro? Da subito loro dicevano: non è possibile, non è così, e lo dicono ancora, e dicono che non è ancora come viene detto nelle carte. Ora, la verità di un paese si basa su una serie di storie, per questo che poi ho deciso di raccontare quelle storie, no? Allora lì che cosa fai? Tu sei un cronista, arrivi e racconti con molta onestà tutto quello che ti viene detto in maniera, come dire, rispettosa di quello che sta facendo la magistratura, perché sta facendo un lavoro che è diverso dal tuo, che è assolutamente molto più importante del tuo, eccetera, eccetera. Allora, se noi continuiamo a pensare che il giornalismo è questo, è quello, è l'ascolto, è un'altra storia. Cioè, il nostro mestiere rimane uguale a 100 anni fa. Ci vuole onestà, ci vuole grande lavoro, grande, passare ore e ore a cercare le notizie, le fonti, le informazioni, e poi dare tutto quello che trovi al telespettatore, farsi un'idea. Io infatti l'altra sera mi sono fatto un'idea, ti ricordi, te l'ho segnalato subito, dopo che erano giorni, settimane che vedevo più o meno le stesse cose, sapevo le stesse cose, mi sono fatti due o tre elementi piccoli in testa nuovi. Perché? Perché è andato a cercare i compagni di scuola, le persone per strada, l'amica, le intervistate che ti raccontano dei fidanzati. Non sono cose trascurabili. Mi sono fatto anche un ritratto della persona, della vittima, diverso da quello che comunque era la geografia generale che appariva sui giornali. Questo è un altro problema, che spesso si stigmatizzano le persone per come le conosciamo, ma come in realtà, quanto più vai a fondo, quanto più ognuno di noi ha mille aspetti. E sicuramente Sara, come ogni ragazzino di 15 anni, io ho un figlio di 15 anni, quindi anch'io, non lo dico, era in un'età di grande cambiamento, come tutti i ragazzini a quell'età. E quindi è anche più difficile stigmatizzare la figura. E questo non lo fai per curiosità, ma per capire che cosa può aver generato, provocato quella figura che cambiava. Nello zio, se è nello zio, nella cugina, se è la cugina. Sentiamo un attimo Giusy, scusami, Giusy. Buongiorno a tutti, mi sente? Sì, certo. Perché sono col cellulare. Niente, la mia opinione è questa. Secondo me i giornalisti stanno esagerando. Da dove chiama lei, signora? Sto chiamando dalla provincia di Varese. Sì. Ecco, niente, io avevo... Non c'è un programma che non parlano di Avetrana, dal Canale 5 alla Rai, eccetera, eccetera. Secondo me stanno esagerando. Infatti avevano fatto su un muro, c'era scritto non siamo ad Hollywood, qui siamo a Avetrana. E mi sembra giusta questa annotazione, perché fanno audience sul dolore degli altri. È giusto dare le notizie, ma devono essere... Non mi sembra che però Avetrana siano così riluttanti dal fatto che sono diventati un set televisivo, va anche detto. Questo non lo so, però la scritta c'era da Vetrano. Sì, vabbè, la scritta può averla fatta chiunque, adesso onestamente. Io sono però molto smaliziato. Secondo me la condivido. Ecco, io la condivido perché non si può fare tutti i giorni, tutti i programmi sempre a Vetrano. Se lei c'è un episodio però che vuole raccontarci di suo figlio. Sì, mio figlio è stato investito da un pirata della strada, lui un altro ragazzo è rimasto ucciso, è rimasto vittima. E mi sono trovata qui i giornalisti in casa, io li ho mandati via perché poi sono arrivati ai funerali, eccetera, eccetera, perché questi ragazzi sono morti, due ragazzi di 15 anni da un pirata della strada. E ripeto, non si può fare audience sul dolore, sì, degli però, altri, guardi, non bisogna esagerare. Adesso no, io sono d'accordo rispetto dei fatti a coinvolgimento personale, ma laddove ci sia un morto, la prima cosa che fanno i giornalisti vanno a casa a cercare la foto del morto. Questo accade da quando esiste la carta stampata. Fa parte, sì, delle necessità del mestiere. Poi esiste, come ha detto giustamente Gabriella Simoni, modo e modo. Chi conosce le regole del mestiere? Non sono regole scritte, non sono quelle che insegnano ai corsi quando uno dà l'esame da giornalista professionista. Quelli sono norme, sono balzelli, sono altre cose. Le regole sono quelle che si imparano sul terreno, sul campo. E si vede subito chi conosce le regole e chi non conosce le regole. Oggi giornalista è tante cose. Giornalista è anche uno con un microfono messo in mano che va in giro a dire cosa ne pensa, come si sente, cosa fa. È Piero Vereni, sì, antropologo, ricercatore a Tor Vergata, autore di Identità Catodiche. Vediamo che idea ti sei fatta te con quello che abbiamo sentito fino adesso. Cerchiamo di ricostruire l'elemento specifico e nuovo, se mai esistesse. Ma io penso che sia proprio questo, insomma, che su cui ci stiamo arrabattando in questa trasmissione. Insomma, il problema vero è che rapporto vogliamo stabilire come professionisti dell'informazione tra l'immagine che dobbiamo veicolare e i destinatari di quell'immagine. Insomma, abbiamo un ruolo di mediatori o siamo soltanto dei mezzi, dei veicoli? Insomma, io penso che la questione della tecnologia, del mutamento tecnologico, muti anche la responsabilità della professione. Non è vero che il giornalista è sempre uguale, fa sempre lo stesso lavoro. Se hai una tecnologia che ti consente di riprodurre... No, ho detto le regole base sono quelle. Poi la regola 1 è che conosci a menadito gli strumenti del tuo lavoro. No, non mi riferivo a quello che dicevi tu, Giulio. In generale dico, cioè, il rischio potrebbe essere dire, beh, si è sempre fatto questo giornalismo, ma quando hai una tecnologia che ti consente di riprodurre la realtà in scala 1 a 1, com'è il caso dei file che volano via in un secondo dal luogo dove sono segretati. Non sono più nemmeno strumenti esoterici, sono in mano a chiunque. Esatto, ecco, il problema è che cosa fanno i professionisti dell'informazione di fronte a un mondo in cui la rappresentazione non è più necessariamente filtrata da loro. Mi sembra perfetto, Piero Vereni, grazie a te, grazie a Gabriella Simoni, grazie a quelli che hanno telefonato, ci sentiamo domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.